da certi gesti, da certe attitudini, da certi sguardi, ella esalava, forse involontariamente, un fascino troppo afrodisiaco. Ella dispensava con troppa facilità il godimento visuale delle sue grazie. Di tratto, alla vista di tutti, forse involontariamente, ella aveva una movenza, o una posa, o un'espressione che nell'alcova avrebbe fatto tremare un amante. Ciascuno, guardandola, poteva rapirle una scintilla di piacere, poteva involgerla ad immaginazioni impure, poteva indovinarne le carezze segrete. Ella pareva creata, in verità, soltanto ad esercitare l'amore. E l'aria che ella respirava era sempre accesa dai desideri sollevati intorno. Quanti l'han posseduta, pensò Andrea. Quanti ricordi è la serba della carne e dell'anima. Il cuore gli si gonfiava come di un'onda amara, in fondo a cui sempre bolliva quella sua tirannica intolleranza d'ogni possesso imperfetto. E non sapeva distogliere gli occhi dalle mani d'Elena. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.